lo scorso giovedì 18 gennaio, chiudendo la puntata di Visionari, la trasmissione settimanale di cinema che curo dal 2000 su queste frequenze, ho detto che la mia esperienza ultraventennale in diretta si interrompeva lì, per mia scelta, ed ho salutato chi era all'ascolto. Considerati i tanti attestati di affetto e stima, con varie richieste di un ripensamento che mi sono arrivati, insieme alla redazione abbiamo pensato di proseguire la collaborazione. Quindi, per ora, la trasmissione cambia e continua. Credo avrà un altro nome. E quest'altra sigla, sempre opera dell'amico David Shaker, sarà programmata in forma registrata, utilizzando repliche di interviste che realizzo per il mio blog, tuttascena1.wordpress.com. I riferimenti restano gli stessi. Il giovedì alle ore 14, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Buon ascolto. Collegamento telefonico con Sabrina Varani, regista del documentario Pagine Nascoste, in tour nelle sale dal 22 gennaio. Allora, Sabrina, intanto ben ritrovata. Salve, ciao Federico. Raccontiamo un po' di cosa si tratta, cos'è questo nuovo progetto. Allora, questo progetto ha seguito per 5 anni la scrittura del libro di Francesca Melandri, Sangue Giusto, il suo ultimo romanzo, edito da Rizzoli, e io l'ho seguita nelle sue ricerche per la scrittura del libro. In Etiopia e in Italia. Perché in Etiopia? Perché il tema del libro, come anche quello del film, è quello del periodo dell'occupazione del governo fascista, insomma, la campagna di conquista dell'Etiopia degli anni 30. Quindi abbiamo, diciamo, siamo andate in Etiopia per incontrare vari testimoni e vari, insomma, anche dei luoghi, teatro degli eccidi, insomma, che gli italiani hanno fatto in quelle terre. E in Italia anche abbiamo incontrato molti testimoni, molte persone che insomma, servivano a Francesca come materia per la scrittura del suo libro. E il concetto del film è, diciamo, piuttosto complesso, ci sono vari livelli che si intersecano, quindi il film parla sia del processo creativo della scrittura, quindi di come tutto questo materiale poi si trasforma in scrittura attraverso l'elaborazione della scrittrice, come questa parte di storia è stata, insomma, oggetto di una rimozione collettiva molto evidente, insomma, molti di noi non sanno quasi nulla di questo periodo e non è un tema che viene stato molto raccontato a scuola, o comunque non è oggetto di riflessione per ora della nostra, insomma, del nostro pensare a quel periodo. E quindi, diciamo, il film racconta attraverso questa ricerca di Francesca Melandri quel periodo di storia. A tutto questo si interseca anche un aspetto più personale della scrittrice, che indaga sulla propria storia familiare, andando insomma, a cercare di capire meglio la figura di suo padre, che appunto, diciamo, si rivela nel corso del film diverso da quello che lei immaginava, ovvero lei sapeva che suo padre era stato, insomma, aveva aderito al fascismo in gioventù perché aveva letto un articolo di suo padre che parlava di, diciamo, che aderiva alle teorie razziste nel tempo, e però, insomma, sapeva che questo tipo di convinzioni erano state cancellate con la sua, diciamo, molto presto nella sua giovinezza. In realtà questa cosa è un po' diversa, e nel corso del film insomma, si delinea meglio questa figura. Quindi è un percorso anche personale della scrittrice che si interseca a un percorso di indagine più collettiva su quel pezzo di storia. Due domande, Sabrina. Il tuo elemento di interesse verso questo testo e poi l'idea di trascriverlo e trasporlo in film. Allora, diciamo che intanto non è una trasposizione perché è proprio un viaggio che si è compiuto in parallelo, cioè io Ok. ho proprio seguito mentre si svolgeva la scrittura, quindi più che una trasposizione che in qualche modo dà un'idea di un lavoro a posteriori, no? Di una cosa che già Sì. esiste, che viene trasformata in film, è più da intendere come un viaggio che si è svolto mentre questa scrittura avveniva. Quindi è stata una ricerca. La ricerca di Francesca per la scrittura del suo libro cioè prende una nuova declinazione cinematografica e documentaristica nel mio film. Quindi sono due ricerche che si incrociano in qualche maniera. E ovviamente l'interesse era sia appunto quello di indagare un po' come una scrittrice trasforma dei dati di realtà in letteratura, cosa che insomma magari è un processo anche abbastanza misterioso, assolutamente soggettivo, differente da scrittore a scrittore. Nel suo caso si prestava molto bene perché il libro di Francesca, Sangue Giusto, è un libro che appunto coniuga molto bene la finzione narrativa con dei dati storici molto precisi, quindi era possibile fare questo tipo di lavoro. E poi è proprio anche il tema di quel periodo storico che mi interessava molto andare a approfondire, insomma. La lettura dei brani tratti dal romanzo. Sì, la lettura, dunque, appunto, ci sono dei brani del romanzo che puntellano tutta la narrazione e che appunto fanno anche un po' da filo conduttore della storia. Sono letti da Valentina Carnelutti e diciamo ci danno questa dimensione anche di un po' di cortocircuito temporale, nel senso che noi sentiamo le parole che nascono da quelle azioni che stiamo vedendo. Quindi in qualche modo è come se mettiamo insieme due momenti proprio temporali diversi, no? Del momento in cui si sta realizzando quella ricerca e il risultato di quella ricerca. Quindi questo è un po' un escamotage per far vedere proprio questa trasformazione della realtà in scrittura. E sì, puntella tutta la narrazione, Sì, insomma, sì, sì. Senti, questo dispositivo. tutti questi tasselli che quadro compongono? E il quadro è appunto un quadro complesso sicuramente, ma molto fruibile. Diciamo, l'identificazione che si ha con Francesca per questa sua storia personale è molto forte, quello che ho potuto anche constatare da queste prime proiezioni. Molte persone si sentono, diciamo, anche identificano proprio in questa ricerca, perché molte persone in Italia hanno genitori o parenti o nonni che in qualche modo sono figure ancora oscure per loro, e quindi questo andare a indagare sul proprio passato individuale rende molto vicino, insomma, al personaggio di Francesca. E il quadro complessivo è un po' un'analisi di diciamo di questo rimosso collettivo e personale che in qualche modo è importante andare a riscoprire, a ritirare fuori, soprattutto in un momento in cui certe teorie, insomma, una certa matrice culturale sta riprendendo anche molta voce nella nostra società, quindi in qualche modo è importante proprio rifletterci sopra. Questo tour a partire dal 22 gennaio, Sabrina, prevede anche la tua presenza che accompagna le proiezioni? Sì, in molti casi sì. Adesso c'è un primo blocco di proiezioni in cui io sarò presente perché il film è stato selezionato dal mese del documentario e quindi io girerò sia in Milano, Napoli, Bologna, Firenze, Palermo, insomma varie città. E poi l'Istituto Luce distribuirà il film, quindi anche lì in molte delle occasioni ci sarò anch'io e poi insomma la cosa è ancora in progress, vedremo perché ce lo stanno cominciando anche a chiedere in vari istituti culturali e speriamo insomma che il film sia visto. Ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? E certo, allora c'è una pagina Facebook che si chiama Pagine Nascoste in cui teniamo aggiornati insomma, chi è interessato con le date di proiezione, tutti i vari commenti e articoli e cose che escono sul film, quindi è possibile andare in questa pagina, Pagine Nascoste. Benissimo. Allora, ricordiamo Pagine Nascoste, documentario di Sabrina Varani, in tour nelle sale a partire dal 22 gennaio. Sabrina, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie mille, A alla prossima. presto. È con noi Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema per parlare di un nuovo progetto, Wanted Clan, che nasce a Milano nella giornata di giovedì 25 gennaio 2018. Anastasia, ben ritrovata. Ci Salve a tutti, buonasera. racconti un po' di questa nuova idea? Un po' riflettuto sull'esigenza di aprire uno spazio che un po' che abbiamo dedicato al cinema, che come sapete è la nostra passione. Ho pensato quale potesse essere il luogo adatto ai nostri interlocutori, che ormai appunto, conosciamo un po', e quindi abbiamo deciso di aprire uno spazio anticonvenzionale, molto diverso da tutti quelli che abbiamo noi stessi frequentato e conosciuto finora. Non è un cinema. È uno spazio dedicato a chi ama il cinema, un luogo dove ritrovarsi per consultare gli ultimi numeri del Cahiers du Cinéma o di South & Sound, quindi le riviste specializzate da una parte, in un'atmosfera molto domestica, vorremmo ricostruire una specie di salottino in cui ognuno ci si senta a proprio agio e come fosse a casa. Poi ci sarà ovviamente uno spazio visioni, in cui poter vedere dei film tutto il giorno o orari prestabiliti in modo tradizionale, ovvero di fronte a uno schermo, sulle sedie da cinema, quelle tradizionali di legno trovate in un vecchio teatro chiuso purtroppo. In alternativa ci sarà la possibilità di guardarli con le cuffie. Con le cuffie durante il giorno, mentre altre persone magari si avvicineranno all'angolo che abbiamo costruito, dedicato un po' al bar e alla caffetteria, dove poter bere essenzialmente poche cose, ma scelte, selezionate, come del buon vino, dei produttori che conosciamo, pochi vini, ma garantiti, buoni garantito. Poi ci sarà un angolo che stiamo studiando adesso, nel senso che inizialmente ci saranno molte poche postazioni, ma vogliamo approfondire il discorso sul 3D, sulla realtà virtuale. Io mi sono avvicinata da un po' a questi film in 3D, ho cominciato a personalmente interessarmene, ho ricercato e trovato dei contenuti di grande livello, anche a livello qualitativo e artistico. E quindi ho fatto una selezione che verrà proposta ai nostri soci, e quindi periodicamente ci sarà una proposta diversa che cambia di film brevi, documentari e non in realtà virtuale, quindi con i visori sulle sedie girevoli. Un'ultima cosa che vogliamo fare per ancora trovare un modo diverso di fruire, diciamo, del film, e anche selezionare dei contenuti molto brevi per i tablet. Insomma, abbiamo già un'idea, cioè proporremo il Mobile Film Festival anche sul tablet, che sono una selezione del meglio della produzione di cortissimi cortometraggi di un minuto, no? Realizzati da dei giovani filmmaker, diciamo, di tutta Europa. Quindi i nostri soci potranno arrivare nello spazio e prendere il tablet e guardarsi il meglio di questi corti, una grande panoramica di questi corsi. Anastasia, sì, è un progetto che nasce con una raccolta fondi quasi 2 anni fa. Esattamente, è una costola di quel progetto lì. Quel progetto lì era sulla carta era proprio questo, nel senso voleva essere molto diverso dal cinema tradizionale e poi in realtà per un anno, perché lo spazio non era adatto a realizzare completamente il nostro sogno, diciamo così, ci siamo un po' adattati, abbiamo fatto un cinema sempre diverso, cioè, a livello contenutistico, ma non siamo mai riusciti a fare quello che avremmo veramente voluto, perché era proprio strutturalmente un teatro che ci ospitava molto più, diciamo, tradizionale, con le sedute tradizionali, il palco. Qui invece possiamo un po' sbizzarrirci per riuscire a costruire degli angoli dove poter sviluppare tutti questi che erano le nostre, insomma, idee, i nostri progetti. Senti Anastasia, come saranno le modalità di fruizione? No, ci sarà tutto, sarà un circolo privato, quindi un clan per l'appunto, e quindi tutto sarà previo tesseramento, quindi ci dovrà essere una tessera annuale. E poi a seconda, diciamo, del tipo di, cioè uno potrà venire direttamente allo spazio semplicemente per consultare le riviste, come dicevo, in quel caso non pagherà niente, se vorrà potrà versi il vino e il tè, sarà gratuito. Se vorrà assistere alla proiezione ci sarà un biglietto per la proiezione, se vorrà noleggiare il tablet oppure il visore ci sarà un altro biglietto dedicato, quindi ci saranno varie opzioni a seconda del tipo di interessi. E un'altra cosa che vorremmo fare sarà organizzare degli workshop, ne abbiamo già 2 in cantiere dedicati al cinema nel weekend di approfondimento e nella fascia invece, diciamo, più aperitivo, anche lì proporre degli approfondimenti legati o al cinema proprio o a dei temi affrontati dai nostri film che proporremo. Voi conoscete già il film, ne abbiamo parlato anche insieme, su Van Gogh e sui falsi, uno dei, diciamo, dei primi dibattiti, di lezioni che accompagneranno l'aperitivo sarà proprio dedicato al falso nell'arte, quindi arriverà un docente molto preparato sul tema che con il video di materiale filmico racconterà un po', sarà proprio una vera e propria lezione a cui uno potrà assistere bevendo bicchieri di vino oppure assaggiando, diciamo, i nostri aperitivi. Quindi questa è un'altra cosa che avrà una cadenza settimanale, un appuntamento fisso. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Certo, con molto piacere. Allora, il sito dedicato proprio a Wanted Clan non esiste ancora, ma bisogna fare sempre riferimento al sito della distribuzione, quindi di Wanted Cinema, che avrà invece una pagina dedicata, quindi è www.wantedcinema.eu e le pagine Facebook Cine Wanted e Wanted Cinema. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento di domani, giovedì 25 gennaio a Wanted Clan dalle ore 19 a Milano, via Vannucci 13. Anastasia, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, grazie, grazie mille. Ciao. Grazie a tutti, ciao. Con noi Olga Brucciani di Lucky Red per il film Gli Invisibili di Klaus Raffl, in uscita in sala giovedì 25 gennaio 2018. Olga, ben ritrovata. Ciao Federico, grazie e saluti a tutti gli ascoltatori. Cominciamo con raccontarlo brevemente, raccontiamo questa storia. Sì, allora, Gli Invisibili, intanto ci tengo a precisare che sarà un'uscita evento. Esce il 25 e sarà in sala per 3 giorni, quindi fino al 27, che è proprio il giorno della memoria. Sì. E racconta fondamentalmente la storia di 4 adolescenti che nella Berlino del 1943 si sono salvati, diciamo, dalla deportazione. Sono 4 ragazzi ebrei e il film, in maniera molto originale sia in termini di linguaggio, perché si alterna la ricostruzione, quindi la finzione con attori, girata tra l'altro mo molto bene, a interviste ai veri superstiti della Shoah e anche ad immagini di repertorio, quindi abbiamo tre livelli, diciamo, di narrazione. Quindi stavo dicendo appunto che è molto originale nel linguaggio, ma anche nella storia raccontata, perché fondamentalmente dà voce a una vicenda che non tutti conoscono, ovvero quella dei 7.000 ebrei in tutta Europa che negli anni, nel 43, insomma, fondamentalmente, anzi in realtà dal 41, quando poi è iniziata il rastrellamento, insomma, degli ebrei, si sono riusciti a nascondere. Non tutti ce l'hanno fatta, anzi di 7.000 sono solo 1.500 si sono salvati grazie all'aiuto dei, diciamo, degli altri non ebrei europei, tedeschi, ma anche di altre nazionalità, e questo film racconta la storia di quattro di loro ed è veramente un viaggio molto emozionante in quegli anni drammatici di guerra. Del regista Klaus Raffle conosciamo qualcosa in Italia? Guarda, in realtà credo di no, dovrebbe essere il primo film suo che esce. Ripeto, insomma, a livello di scelta linguistica è veramente un film interessante. Noi lo stiamo proponendo peraltro anche alle scuole, come facciamo da anni con i film legati a questo argomento. E una cosa che è piaciuta agli insegnanti che l'hanno visto è proprio questo doppio livello Livello. narrativo. Sì, esatto. Sì, quindi davvero. Insomma, un film interessante da vedere assolutamente, e il tempo è poco, quindi solo 3 giorni e vi consiglio, insomma, di andare in sala. Sì. Senti, allora, come lo avete intercettato? E poi ci racconti un po' brevemente di questa scelta distributiva, in quante sale sarà possibile vederlo? Colleghi, insomma, Bayer se l'hanno visto credo al Festival di Berlino, se non ricordo male. Noi da anni, come accennavo prima, insomma, siamo sensibili alla commemorazione di questa giornata, e quindi Invisibili arriva dopo Il viaggio di Fanny, Corri ragazzo corri di Achman Show, La chiave di Sara, ed è un'uscita importante perché usciamo inoltre 200 copie e, come anche questo accennavo prima, oltre agli spettacoli, diciamo, di normale programmazione pomeridiana e serale, stiamo registrando la prenotazione di un sacco di mattinate per le scuole. Quindi le insegnanti, insomma, si sono già attivate e tante, insomma, lo potranno fare anche nei prossimi giorni, perché a differenza del pubblico, tra virgolette, normale, che lo potrà vedere solo in questi 3 giorni, le scuole avranno la possibilità di organizzarsi per vederlo anche dopo il 27 gennaio. Benissimo. Allora ricordiamo Gli Invisibili di Klaus Raffle, in uscita in sala 25, 26, 27 gennaio 2018. Olga, un saluto e a risentirci Ciao presto. Federico, grazie. Siamo in collegamento telefonico con Chiara Manni dell'Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese per parlare del prossimo appuntamento di DocuD, giovedì 25 gennaio alle ore 17:30 con la proiezione di Otto Frank, padre di Anna, di David De Jong. Intanto Chiara, ben ritrovata. Grazie anche a te, buongiorno a tutti. Allora, procediamo per passi. Intanto spieghiamo, raccontiamo la realtà dell'ACMA. Beh, brevemente è un'associazione che si occupa di cinema e in particolare della promozione cinematografica dal 2000. facciamo rassegne, cineforum, abbiamo anche un festival del documentario, quindi bene o male tutto incentrato sul cinema, in particolare in questi ultimi anni proprio sul cinema documentario e il cinema del reale, come nella ultima rassegna che stiamo facendo in questi mesi. Ecco, ci parli di DocuD tutti i giovedì dedicati a questo format. Sì, dunque, DocuD è nato un po' di anni fa, abbiamo fatto già 3 edizioni, però quest'anno è la prima edizione in collaborazione col Comune, con l'assessorato al Comune di Pescara, e in una sala diversa, la sala del Museo Vittoria Colonna, Museo d'Arte Moderna qui a Pescara, quindi molto più grande, sui 150 posti, e devo dire che queste due proiezioni hanno coperto e anzi superato i 150 posti, sono state molto molto seguite le prime due proiezioni che abbiamo fatto i giovedì precedenti. E speriamo altrettanto questa di domani, sempre alle 17:30, che abbiamo dedicato alla giornata della memoria proprio perché a ridosso del 27 di gennaio. Sì, ecco, arriviamo al documentario Otto Frank, padre di Anna. Ci spieghi un po' di questo lavoro? Sì, dunque, voglio precisare che Otto Frank, padre di Anna, è stato proiettato al Festival delle Letterature di Mantova qualche anno fa, e quest'anno, tramite Cineagenzia, che distribuisce il documentario, verrà proiettato, si può dire in contemporanea, cioè dal 24 al 28, è proiettato in 8 città, per il momento 8 città italiane, tra cui Pescara, città tipo Roma, Rimini. Quindi diciamo che siamo stati inseriti in questo circuito perché avevamo visto il documentario, ci interessava e ci siamo rivolti a questa agenzia di distribuzione. Il documentario è di produzione olandese, anche il regista David de Jong è olandese, anche perché i Frank vivevano in Olanda. E praticamente parte il documentario dal ritorno di Otto Frank in Olanda, e con la speranza di ritrovare la sua famiglia, invece poi si rende conto, anche attraverso informazioni che lui prende, che purtroppo era l'unico superstite. E quindi la sua vita, attraverso il ritrovamento di un'amica comune che aveva le cose di Anna, di questi diari, che poi sarebbero 3, l'ultimo diario è quello proprio dell'ultima parte, diciamo, della vita di Anna, attraverso, diciamo, il ritrovamento di questi diari, la sua vita diventa tutta in funzione della voler far conoscere al mondo la storia di Anna per far conoscere poi la storia della Shoah attraverso le parole e gli scritti di Anna. E quindi nel documentario si vede interviste fatte a Otto Frank, in cui Otto Frank parla, perché lui ha avuto anche dopo il ritorno, per sua fortuna, una vita molto lunga, e quindi delle bellissime interviste in cui lui racconta, parla. E lui portava questo diario in tasca sempre, l'ultimo diario della figlia, lo portava sempre, in inverno nel cappotto, l'estate nella giacca, non se ne separava mai. E quindi è una storia molto molto intensa, ovviamente. E anche credo nuova, perché si conosce più la parte precedente e non questa di come poi il diario è arrivato a essere venduto milioni di copie in tutto il mondo, riduzioni poi cinematografica, sia stato fatto un film, ma anche musical, opere teatrali, veramente di tutto. Chiara, ci sarà anche un momento d'incontro con il pubblico? Dopo la proiezione avremo un momento di incontro col pubblico insieme alla professoressa Spedicato Iengo, che è una docente di sociologia presso l'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti. Quindi ci sarà un po' una riflessione insieme al pubblico, infatti noi sempre facciamo questi cineforum in cui poi il pubblico magari fa delle proprie riflessioni, ha delle così cose da chiedere, e la professoressa farà anche un po' una riflessione sua sul significato della memoria, legata anche un po' in senso più ampio, proprio perché questo diario è di per sé una memoria, diciamo, su cui riflettere. Allora, in chiusura ci lasci anche tutti i riferimenti web per saperne di più? Della nostra associazione www.webacuma.it e la mail, se qualcuno vuole chiedere informazioni, scrivere info@webacuma.it. Poi abbiamo anche una pagina Facebook, basta scrivere Associazione Acuma e quindi c'è questa pagina Facebook dell'Acuma. Bene, ricordiamo l'appuntamento per la rassegna il giovedì DocuD con Otto Frank, padre di Anna, di David De Jong, giovedì 25 gennaio alle 17:30 al Museo Colonna. Chiara, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie anche a te e a tutti quanti, buona giornata. Ciao. Ciao. È con noi Giulia Martinez, ufficio stampa del film Paradise di Andrei Concialowski. Intanto benvenuta, Giulia. Grazie, grazie. Lo raccontiamo brevemente? Lo raccontiamo brevemente. La prima cosa che vorrei dire è che intanto Paradise racconta l'Olocausto, questa tragedia immane, in un modo assolutamente diverso. Assolutamente. È uno sguardo completamente innovativo. La storia è la storia di tre personaggi le cui vite si incrociano casualmente nel corso della Seconda Guerra Mondiale, siamo nel 41. La protagonista del cuore del film in realtà è Olga, che è Giulia Vysotskaya, un'attrice celeberrima in Russia, che è una principessa russa emigrata in Francia ed entrata nella resistenza francese, che viene catturata perché nascondeva dei bambini ebrei. Al suo fianco ci sono due personaggi, l'uno è interpretato da Jules Dugesne ed è il commissario di polizia che l'arresta, ma che è disponibile a lasciarla andare in cambio di un rapporto sessuale. Lei è una donna affascinantissima. E l'altro invece è Helmut, interpretato da Christian Klaus, che è un regista, che è un attore esordiente, almeno al cinema, un attore tedesco, che è un comandante dell'SS che arriva dagli altissimi vertici, tanto che viene mandato a guidare campo di concentramento, e che conosceva Giulia, incontrata durante la vacanza in Italia, è rincontrata in un campo di concentramento, cambierà completamente le sorti di questa donna, perché lei viene, dopo la condanna, viene inviata in un campo di concentramento. Oh, Da questo Giulia. incontro, diciamo che questo lo vorrei dire, da questo incontro dei due che si erano, lui era innamorato, era stato innamorato di lui, di lei tanti anni prima. Diciamo che questo incontro cambia in lui anche forse il modo di vedere la sua adesione all'ideologia nazista, cioè almeno gli instilla una scintilla di dubbio, che poi insomma rientrerà, come vedremo. Giulia, il cineasta Andrei Concialowski lo conosciamo bene in Italia da diversi decenni e tu professionalmente anche. Io ho avuto la fortuna di lavorare per la prima volta con Andrei Concialowski per Le notti bianche del Fossino, che è stato presentato a Venezia nel 2014 ed ha vinto il Leone d'Argento, come d'altra parte Paradise, presentato nel 2016 e vincitore di Leone d'Argento. E poi ho avuto modo di stare a stretto contatto, di lavorare a stretto contatto con Concialowski, perché quest'anno, a partire da fine agosto, ha girato in Italia il suo Colossal d'autore, sulla vita di su Michelangelo, Il Peccato, che è una coproduzione italo-russa che vede in Italia la partecipazione di Jean Vigo con Rai Cinema, oltre alla Andrei Concialowski Foundation. Devo dire che Concialowski è una persona di rara, veramente estremamente interessante, estremamente stimolante, è un uomo di 80 anni che ha un'energia e una creatività incredibili e ha un modo di lavorare del tutto personale. Da un punto di vista tecnico, una cosa del tutto inusuale è per esempio il fatto che lui lavori con 6 camere contemporaneamente, cosa che ha fatto sia con Paradise che con Il Peccato, per cui ha 6 punti di vista, sempre 6 scene, 6 situazioni per ogni scena. Da un punto di vista, come dire, stilistico, quello che lui persegue con grande forza è proprio la ricerca della autenticità, della verità, per cui tende a lavorare con attori, anche se in questo caso ha utilizzato Giulia Vysotskaya, che comunque è molto nota in Russia, ma non altrettanto nel resto del mondo. Lui tende a utilizzare attori non attori, attori non professionisti, perché ama molto far uscire proprio, far emergere l'autenticità dell'uomo piuttosto che il mestiere d'attore. Cosa apprezzi di questo film, Giulia? Io credo che Paradise sia un film che racconta, oltre al fatto di raccontare l'Olocausto in modo diverso, riesce a commuovere senza essere mai melò, senza la ricerca della lacrima facile. Trovo che la cosa più interessante sia proprio il taglio asciutto che Concialoschi è riuscito a realizzare, che ci ha regalato con questo film. Che tipo di distribuzione è prevista? Il film è distribuito in Italia da Viggo, che è un distributore nato nel 2014, che ha distribuito negli anni, ha fatto riuscire negli anni 2 film di Wim Wenders e poi 4 film di Jacques, e avrà una distribuzione limitata, saranno dalle 15 alle 20 copie. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Se c'è un sito internet, una pagina Facebook. È www.paradisefilm.it. Perfetto. Allora, ricordiamo, da giovedì 25 gennaio 2018 nelle sale Paradise di Andrei Concialoschi. Giulia, un saluto, a risentirci presto. Grazie. Ciao. Grazie. A presto. Ben ritrovato Francesco Di Martino, regista del film Scampia Felix, che è in programmazione giovedì 25 gennaio all'Apollo 11 qui a Roma alle ore 21. Francesco, eccoci qui. Ciao Federico, è sempre un piacere risentirti. Anche per me. Allora, per chi ci ascolta, chiaramente diamo qualche indicazione. Che storia racconta Scampia Felix? Allora, molto brevemente, Scampia Felix considera che è una storia che nasce più di 10 anni fa, in realtà, con una pubblicazione che feci insieme al gruppo GRIDAS, che vuol dire Gruppo Risveglio dal Sonno, che è questo centro sociale che c'è a Scampia, fondato da Felice Dignataro, la sua compagna, e i suoi amici più stretti, insomma, anche se oggi il gruppo si è allargato moltissimo. Dove raccontavo un'altra Scampia, cioè raccontare la storia di Felice attraverso questo libro e tutto quello che lui è riuscito a creare dagli anni, insomma, dagli anni 80, anche se lui è arrivato un po' prima, al 2004, quando poi lui, diciamo, purtroppo non c'è più, però il gruppo Gridas ha continuato e fino ad oggi continua. E, inizia tutto da questa esperienza, circa 2 anni fa. Io vado sempre a Gridas perché fanno un bellissimo cineforum da più di 20 anni, 15 anni fanno questo cineforum, andavo lì a presentare come sempre i miei film e qualche anno fa c'era pensato insieme a Gridas di cominciare a fare un documentario sul Carnevale di Scampia, che quest'anno fa 36 anni praticamente che esiste. È un carnevale particolare perché si parla di riciclo, si parla di fare delle cose con materiale povero, quindi da lì è nata questa idea di fare questo documentario e attraverso questo, diciamo, carnevale riuscire a raccontare la vera faccia di Scampia, quella che purtroppo ormai molti hanno smesso di raccontare, altri non hanno mai raccontato, perché portiamo via oggi ha sempre, come dire, questa etichetta negativa di quartiere pericoloso, quando oggi invece è un quartiere, io te lo dico sempre, tutte le presentazioni, pazzesco, perché ci sono più di 50 associazioni che fanno delle cose bellissime, ci sono delle eccellenze che si sono create da più di 10 anni, da quando insomma anche la faida Scandia è finita, perché diciamo la faida è finita da più di 10 anni. Come sempre però, se un quartiere non produce violenza, non produce sangue, non se ne parla. Quando invece comincia a produrre positività, diventa, diciamo, passa subito in secondo piano, non viene più considerato, no? Sì, quindi sì. Questo è in sintesi un po' la storia di questo film. Francesco, che tipo di seguito ha questo carnevale? Ma il carnevale considera che è stato uno dei primi più importanti che c'è stato a Napoli. Poi questo carnevale ne ha creati tanti carnevali a Napoli, i cosiddetti carnevali di quartiere. E tra l'altro esiste un coordinamento dei carnevali che si rifanno appunto sul carnevale di Scandia, perché è stato uno dei primi in assoluto, che poi a un certo punto tutti i quartieri hanno cominciato ad organizzarsi, e oggi in collaborazione col Gridas ogni quartiere c'è il suo carnevale. Mm-hmm. E la cosa particolare di questo carnevale, che non è un carnevale diciamo comune, ma è un carnevale di critica sociale, dove ogni anno viene scelto un tema, su questo tema si fanno dei carri, e il carro diciamo positivo, che è quello che poi sopravvive al carnevale, e il carro diciamo negativo su quell'argomento, che poi viene bruciato alla fine del carnevale. Ma soprattutto vuole essere diciamo un momento da trasmettere ai bambini più piccoli, per auto-organizzarsi, nel senso per farsi la propria maschera da soli e quindi non andare a comprarla. Quindi diciamo che la base del carnevale è questa principalmente, quello di riuscire in qualche modo ad auto-organizzarsi, sì, si può definire così, e portare avanti comunque delle cose in modo indipendente. Sì, sì. Senti, com'è strutturato il documentario? Ah, il documentario, guarda, io ho avuto difficoltà a montare questo film per il semplice motivo che ho seguito diverse storie. Al centro del film c'è quella del Gridas, appunto, di Felice Pignataro e la sua compagna Mirella, i figli soprattutto. E attorno ci sono tutti quelli che sono cresciuti con Felice Pignataro, quindi sia da quelli più giovani, come può essere, cito la Banda Baleno, che quando conobbero Felice Pignataro erano piccolissimi, andavano ancora alle scuole elementari, oggi sono grandi, sono adulti, e sia invece gruppi che esistono da lì, diciamo a pari passo con il fenomeno Gomorra, che diciamo più di 10 anni fa è nato, e che ci fu questa esigenza di andare a Scampia per cominciare a far parlare delle cose positive di Scampia in qualche modo. Un gruppo che per me, cito sempre, che poi è il cuore del film, è sicuramente Chi Rom e Chi No, che è un gruppo che è nato in un campo Rom, quando ci fu proprio l'esigenza di conoscere il Rom, no? E dopo questa esperienza loro sono stati in gamba, bravissimi, perché sono riusciti a mettere insieme i Rom con la gente di Scampia, e oggi è nato un progetto che si chiama Kiku, che è un ristorante che si trova a Scampia, tra l'altro consiglio agli ascoltatori per andare a mangiare. E quindi ci sono tutte queste varie storie che si incrociano, e ripeto, io ho raccontato solo quelle non più importanti, perché in realtà sono tutte importanti, quelle che ho avuto la fortuna di poter avvicinare un po' di più. Sì. Poi ci sono quelle che non ho usato nel film, che nel DVD, perché c'è un DVD di questo film, ho messo come extra, perché sinceramente era un peccato non utilizzare quel girato, perché comunque le storie, ripeto, sono tutte bellissime, tutte interessanti, avrei voluto raccontarle tutte, perché ci sono appunto quelle storiche, quelle nate dopo, proprio perché c'è stata anche questa esigenza che la gente di Scampia di avere diciamo dei punti d'incontro dove potersi incontrare, dove poter fare delle cose, come in ogni quartiere d'Italia d'altronde. Sì. Francesco, come è organizzata la proiezione e l'incontro di domani? Guarda, oggi io sono diciamo felicissimo, perché in sala con me ci sarà Cristian Carmosino, che tu immagino conosci. Certo. E sarà lui insomma a presentare il film. Verrà presentato il film, con me tra l'altro c'è anche una delle protagoniste, non a caso ho citato Chirom e Chinò, c'è Emma Perulano, che è una del gruppo Chirom e Chinò e della compagnia TQ. E quindi prima guarderemo il film e poi dopo il film, attraverso Cristian, che suppongo ci farà delle domande, racconteremo un po' sia la mia esperienza, che ormai è lunga appunto 10 anni a Scampia, sia quella di Emma come protagonista nel film, ma anche come persona che vive a Scampia e ci lavora da molto tempo. In chiusura diamo tutti i riferimenti internet per il tuo lavoro e per questo documentario? Ovviamente c'è un sito scampiafelix.it e soprattutto devo citare la distribuzione, che sono OpenDDB, distribuzione dal basso, con cui ormai io distribuisco tutti i miei film e loro distribuiscono il documentario, e poi il GRIDAS, c'è il sito del GRIDAS, che in questo momento sono abbastanza attivi perché c'è il carnevale, diciamo, che si avvicina, e quindi tutte le informazioni in merito al giorno di carnevale, che sarà l'11 febbraio, li potete trovare sia nel sito di felicepignataro.org sia Scampia Felix sia OpenDDB. Allora, ricordiamo l'appuntamento con il documentario Scampia Felix, giovedì 25 gennaio alle ore 21 all'Apollo 11 qui a Roma. Francesco Di Martino è il regista, ci sarà poi un incontro dopo la proiezione. Francesco, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Crepi, e grazie mille come sempre Federico. Con noi Giulia Esposito di Lab 80 per parlare del film La testimonianza di Greenberg, che sarà in uscita il giorno della memoria, 27 gennaio 2018. Intanto ben ritrovata. Grazie, grazie mille. Lo raccontiamo? Certo. Il film La testimonianza è il primo lungometraggio di Amichai Greenberg ed è il racconto di un ricercatore che studia la Shoah e si ritrova in una battaglia legale tra alcuni potenti industriali che vogliono costruire un complesso laddove lui sa è nascosta una fossa che risale a un massacro avvenuto nel villaggio di Lensdorf in Austria. Quindi appunto il protagonista diventa prosegue la sua lotta da solo contro potenti interessi e durante la sua ricerca viene a scoprire però delle verità non soltanto storiche ma anche che riguardano la sua famiglia, quindi la sua vita privata. Mm-hmm. Quindi c'è una la ricerca si trasforma un po' in una doppia ricerca che rende il film un dramma storico, anche perché è basato su un vero episodio e inoltre un thriller ricco di colpi di scena relativi invece alla vicenda personale. Cosa ti ha convinto del film? Allora, innanzitutto questo aspetto, questo doppio livello tra ricerca della verità storica e fare i conti con la propria identità, quindi con il passato anche della propria famiglia, la propria vicenda, descritto molto bene. È un film che riesce, ora non starò sicuramente a svelare gli aspetti, ma che riesce a sorprendere in diversi momenti della storia e ha anche un'ottica che in qualche modo riesce a unire l'aspetto quasi documentaristico, in modo anche molto rispettoso del reale episodio da cui trae spunto, e questo avviene sia tramite delle scelte di regia, tramite l'utilizzo di veri filmati, testimonianze di archivio reali relative all'episodio di ebrei austriaci, e questo invece aspetto molto coinvolgente del dramma personale, della vicenda personale. È un equilibrio che Greenberg riesce a raggiungere e che mi ha particolarmente colpito del film. Anche il fatto che questo questo massacro avvenuto sul finire della Seconda Guerra Mondiale sia un caso tuttora rimasto aperto, perché la fossa nella realtà non è mai stata trovata e i responsabili sostanzialmente sono rimasti impuniti, è qualcosa che mi ha colpito moltissimo, che non era sicuramente facile raccontare, specialmente da parte di un regista che a sua volta è figlio di sopravvissuti alla Shoah. Un film che ha ottenuto diversi riconoscimenti internazionali. Sì, innanzitutto questo film è stato presentato a Venezia in concorso nella sezione Orizzonti, è lì infatti che l'abbiamo individuato. Ha vinto in Italia anche una menzione speciale al Festival Terzo Millennio e ha poi partecipato a numerosi festival internazionali, portando anche a casa diversi riconoscimenti, diversi premi. Che tipo di distribuzione avete pensato? Allora, prima di tutto abbiamo individuato questa uscita in occasione del Giorno della Memoria, scegliendo un film che portasse con sé degli interrogativi attuali sul tema, quindi non fosse una semplice un semplice raccontare qualcosa sul tema della Shoah per una pura ricorrenza, ma ci importava appunto che contenesse degli spunti di riflessione attuali. Usciamo in sala il 25, ma il film naturalmente sarà disponibile anche in date successive, e a Roma lo potrete vedere all'Apollo 11 a partire da sabato. Benissimo. Allora, ricordiamo l'appuntamento con la testimonianza di Amikai Greenberg a partire dal 25 gennaio in sala, con Giulia Esposito di Lab 80, per parlare del film Aleg e le arti strane di Andrés Duque, in uscita in sala il 26 gennaio 2018. Allora, Giulia, ce lo racconti in breve? Sì, allora il film Aleg e le arti strane innanzitutto è un film molto particolare, è un documentario che ritrae il musicista Oleg Karavaychuk, che è stato un eccentrico compositore russo, un poco conosciuto in realtà proprio perché per la maggior parte della sua vita non si è esibito pubblicamente, è stato anche in qualche modo perseguitato dal KGB, la sua famiglia e lui come compositore, e le sue opere spesso bandite. Perciò è un musicista che ha composto soprattutto per il cinema e per il teatro, proprio come possibilità che lui ha individuato per poter liberamente fare la sua arte. Sì. E il documentario è anche un raro esempio di il documento in cui si può vedere questo musicista, perché pochissime sono le apparizioni pubbliche, pochi quindi anche i documenti filmati, e il regista ha deciso di lasciargli lo spazio per esprimersi, quindi vediamo questo musicista, una figura anche molto particolare che immediatamente si riconosce come eccentrico, all'età di 89 anni, ancora molto vivace e ispirato sia nel parlare di musica che nel suonarla. Che tipo di distribuzione per questo lavoro? Allora, questo film è stato il vincitore lo scorso anno del CU Sound International Music Festival, e quindi usciamo il 26 in occasione della quarta edizione del festival. Benissimo. E anche questo film, per questo film vi rimando alle nostre pagine social, quindi Lab 80 Film su Facebook, e al nostro sito lab80.it/distribuzione, su cui teniamo aggiornate le date. Giulia Esposito di Lab 80, un saluto e a risentirci presto. Grazie mille, grazie, un abbraccio. con Carlo Griseri per parlare della quarta edizione di See You Sound a Torino dal 26 gennaio al 4 febbraio. Carlo, ben ritrovato. Grazie. Allora, per chi ci ascolta, raccontiamo di cosa si tratta, cos'è il See You Sound? See You Sound è il primo festival nato in Italia sul cinema e tematica musicale. Siamo a Torino, siamo alla quarta edizione, stiamo per cominciare dal 26 di gennaio al Cinema Massimo, al Museo Nazionale del Cinema, pronti per 10 giorni di eventi. Mm-hmm. 10 giorni, come sarà strutturato il festival? Il cuore del festival sono i concorsi, sono 4, 2 di lungometraggi, uno documentario e uno di fiction, uno di cortometraggi e uno di videoclip. A questi si affiancano 2 sezioni fuori concorso, una più di ricerca che si chiama Rising Sound, quest'anno è dedicata al tema della radio, sottotitolo Radioactivity, e un'altra che si chiama Into the Groove, che è più la vetrina con i grandi titoli, i grandi nomi musicali e o cinematografici. Quante sono le opere presentate e poi è prevista anche la presenza di ospiti? Sì, allora le opere sono più di 60, sono tante, sono quasi tutte, almeno più della metà, anteprime italiane, in concorso tutte, nelle sezioni fuori concorso solo in parte, perché ci tenevamo, diciamo, a presentare alcuni titoli che avevano già avuto una loro anteprima italiana, ma diciamo siamo andati oltre questo aspetto puramente tecnico per il nostro pubblico. Ospiti ce ne sono tanti, molti registi, tanti giurati ovviamente, diciamo che se dovendo nominarne uno solo, non so quanto tempo ho, ma uno solo è sicuramente Tony Palmer, un regista britannico, uno dei padri del cinema a tematica musicale, più di 50 opere, fa documentari fiction nella sua carriera, sarà a Torino per un paio di giorni, ma mercoledì 31 gennaio gli dedicheremo una piccola maratona retrospettiva. Per come la vedi tu, com'è il rapporto e come si sta sviluppando tra musica e cinema? Ma il rapporto sembra incredibilmente sempre più vivo. Anno dopo anno ci accorgiamo che sono sempre di più i titoli, i lavori, gli autori anche importanti di cinema che si prestano e si dedicano a un film o documentari a tematica musicale. Il pubblico cresce, per fortuna, l'attenzione è sempre più alta. A Torino, proprio lo stesso giorno in cui inizieremo noi, inizierà anche una mostra che durerà un anno del Museo Nazionale del Cinema, che punta proprio a approfondire a 360 gradi il rapporto fra cinema e musica, e speriamo sia un altro passo per approfondire, allargare ancora di più l'interesse. Ci addentriamo un po' più nello specifico in questo focus dedicato alla radio? Allora, il focus dedicato alla radio è stata un'idea di Juanita Praez Murillo, che è una delle direttrici artistiche del festival ed è stata l'ideatrice 4 anni fa di questo progetto. La volontà, sono 5 film, la volontà è quella di raccontare la radio più come mezzo di comunicazione capace di attraversare i confini, di scoprire, di avvicinare i popoli, ma in senso sia sociale, con un film in particolare che si chiama Radio Kobane, un film molto forte che ha già vinto premi importanti un po' in tutto il mondo, ma anche la radio come scopritrice di talenti, come luogo in cui per tanti anni, prima dell'avvento di internet, si potevano sperare di trovare nuove canzoni, nuovi talenti, nuovi generi musicali. C'è un film di finzione interpretato da attori di primo livello statunitensi, ci sono documentari di anteprima, c'è un po' di tutto, davvero l'idea è quella di raccontare la radio in tutti i suoi aspetti. I luoghi e gli orari del festival? Allora, noi cominciamo venerdì 26 gennaio alle 21 al Cinema Massimo con un film svedese degli anni 10 del Novecento, musicato dal vivo, è un omaggio che ci ha fatto il Museo del Cinema, perché questa operazione, diciamo, avrà la sua prima assoluta proprio quella sera. Poi dal giorno dopo, dal sabato 27, cominciamo dalle 15 in poi con 4 spettacoli al giorno in ogni sala del Cinema Massimo, e poi nelle altre sale in cui partecipiamo sono, diciamo, dedicate al cinema, ma ci sono approfondimenti, incontri musicali che sono, diciamo, dal pomeriggio e sera tutti i giorni fino al 4 di febbraio. Chiudiamo lasciando tutti i riferimenti web? Sì, allora il sito seeyousound.org è quello da cui potete partire per trovare tutto, ma abbiamo anche una pagina Facebook, e va bene, siamo presenti su tutti i social, ma in particolare su Facebook siamo molto precisi, puntuali e attenti, trovate già tutti i trailer dei film,